Mi Buon pomeriggio a tutti, siete di nuovo in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, sempre qui dalla casa studio di Rita Marco Tulli. Ieri ti ho fatto una presentazione un po' esagerata. Non era esagerata, ho raccontato soltanto la verità e ho raccontato un po' della tua carriera, ma vorrei ripetere brevemente che Rita Marco Tulli non solo è una pianista strepitosa, ma oggi è affermata nel mondo anche come compositrice visionaria anche di colonne sonore italiane. Ha realizzato la colonna sonora del film di Rocco Papaleo Basilicata Coast to Coast, ha vinto diversi premi, adesso nuovamente ha scritto la colonna sonora per il nuovo film di Rocco, ma è sempre in giro come fanno tutti i grandi musicisti. Si è appena tornata da Parigi, hai vissuto tanti anni in Svezia, continui a frequentare ambienti internazionali. Perché è così stimolante per noi musicisti italiani frequentare case e situazioni di musica all'estero? Intanto è stimolante sempre, secondo me, no? Conoscere altre cose. Sicuramente fuori ho trovato dei gruppi che ahimè in Italia non ascolto quasi mai, perché non so per quale motivo, ma ci sono tantissime realtà fuori che sono più conosciute, che magari qui in Italia non sentiamo. Come per prima parlavamo di Snarky Puppy, che qui ancora non è molto conosciuto, è praticamente un bassista pazzesco, ho appena sentito il loro concerto e veramente hanno tutti 29 anni, escono da questa scuola americana che si chiama Jefferson e fanno una musica strepitosa, secondo me, bellissima. Questo perché le scuole di musica in Italia non funzionano bene o sono ancora fossilizzate su vecchi stilemi? Ma sì, secondo me purtroppo la musica qui viene sempre ancora un po' considerata come l'ora di ricreazione. Io vedo appunto mia figlia Elettra che fa la terza media, chiaramente, e la musica è veramente sempre all'ultimo posto. Cioè, non so se non sanno insegnare, non c'è questa predisposizione, dove invece trovo fuori, per esempio in Francia studiano tutti degli strumenti, no? Anche in Francia poi so che ci sono anche degli incentivi statali per i giovani musicisti e anche per i professionisti, per aiutarli anche a fare tournée all'estero. Sì, assolutamente sì, questo è un po' quello che manca e quello che io sto cercando appunto di fare, anche di proporre delle cose proprio per le scuole, più che altro per l'ascolto, per la diffusione della musica in generale, perché non si ascolta più tanta musica. Io mi ricordo le bellissime cose che facevi tu, Doc, che è rimasta una roba storica e meravigliosa, che non c'è più, ahimè, in televisione. Ora c'è Stefano Bollani che sta facendo questa cosa, meno male, è un'unica cosa, ma insomma programmi come quelli Doc non ci sono più. Perché? Non lo so, dovremmo chiederlo ai dirigenti della RAI? Assolutamente sì, secondo me, perché ecco, la musica va ascoltata, se uno non la conosce non sa la differenza, no? Però è molto strano perché in Italia negli ultimi anni c'è stato un fiorire di musicisti meravigliosi, della nuova generazione ci sono musicisti pazzeschi. Questo è verissimo, infatti sono molto contenta se ci sono musicisti giovani, però ecco, non hanno magari la possibilità di suonare, non ci sono troppi spazi, cioè ci sono gli spazi, però ecco, forse c'è meno predisposizione per i giovani ancora non conosciuti, no? Di farli suonare, di fare questo tipo di lavoro che secondo me manca un po' in Italia. Ok, allora passiamo alla musica. Per iniziare questo appuntamento con il Soundcheck ho scelto Joni Mitchell. Meraviglia delle meraviglie, grazie. Prego, per completare l'opera ho scelto Sometimes I'm Happy, un vecchio standard, qui riproposto da Joni Mitchell, accompagnata da un arrangiamento meraviglioso scritto da Vincent Mendoza dall'album Both Sides Now. Joni Mitchell al Soundcheck di Radio 24. Sometimes I love you. I hate you, but when I hate you, it's because I love you. That's how I am. So what can I do? I'm happy when I'm with you. I'm happy when I'm with you. Ti è mai capitato di suonare con un'orchestra sinfonica al pianoforte e dietro questo grande organico? Sinfonica ancora no, ahimè, mi piacerebbe, uno dei miei sogni, però sì, ho suonato con quartetti di archi, adesso andrò a Londra a fare una cosa molto bella dedicata a Nino Rota con arrangiamenti di un bravissimo arrangiatore inglese, dove ci sarà ospite Steve Swallow, Carla Bley, per cui adesso mi devo mettere lì a lavorare, studiare. Ti piace Herbie Hancock? Sting? Sì. Allora facciamo una breve pausa e torniamo con Herbie Hancock e Sting al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. My mistress says I'm nothing like your son. My hunger for her explains everything I've done. Too high at the moon, the whole night through, and they really don't care. I go out of my mind, but for you. Il pianoforte di Herbie Hancock incontra la voce e il basso elettrico di Sting in Sister Moon, brano scritto da Sting in puro stile Herbie Hancock, però qui al soundcheck di Radio 24. Siamo con Rita Marco Tulli, abbiamo raccontato diverse cose della sua carriera, però tu hai collaborato anche con grandi artisti, con tante voci nazionali e internazionali. Quali sono state le esperienze indimenticabili? Ma forse quelle indimenticabili, quelle con Pino Daniele, perché è quello con cui ho collaborato poi più a lungo, e la tournée più bella, forse più bella, insomma più particolare, è stata quella con Palmetini. Palmetini e Pino Daniele insieme, quanti anni fa? Era nel 1994-95, se non sbaglio. E poi Palmetini, tornando in Italia, dovendo partecipare al Festival di Sanremo, lasciò a casa Lyle Mace, il suo pianista storico, e chi chiamò? Non dire così, perché Lyle Mace è veramente fantastico. No, dunque mi chiamò perché questa era una colonna sonora che lui aveva fatto per un film italiano, e quindi quando mi telefonò, vuoi venire così, ero veramente, come dire, sul cielo, in cielo. Non male partecipare al festival più popolare in Italia con un monumento della musica contemporanea come Palmetini. Era la colonna sonora, appunto, era una cosa molto tranquilla, no? Qualcuno aveva contestato quando si sentiva la chitarra, perché era esattamente all'unisono chitarra e pianoforte, però bello. Rita, tu continui a studiare, come trascorri le tue giornate? Ma quando riesco a studiare, quando ci sono, qui le trascorro, dove stiamo adesso, cioè praticamente davanti al pianoforte, cercando di comporre, studiare con tutti i ricordi, le foto, le cose, la musica. Ti piace Estate di Bruno Martino? Come no, certo che sì. Sai che noi abbiamo anche inciso questa, una versione di Estate di Bruno Martino per il mio primo disco fatto per la Go Jazz di Ben Sidran, lo ricordi questo? Come no, certo, Ben Sidran, ti ricordi, abbiamo fatto anche una tournée, se non sbaglio, no? Abbiamo fatto un paio di concerti, due o tre concerti con lui. Diverse cose con Sidran, Roberto Gatto, era una bella combriccola di musicisti, credo Stefano Di Battista, giovanissimo, sì, pure. Sì. E qui io ti voglio far ascoltare John Hendrix, però nella sua versione inglese di Estate di Bruno Martino, accompagnato da un organico d'archi molto interessante. John Hendrix l'hai conosciuto? No, di persona no, chiaramente so chi è, l'ho sentito diverse volte, ma non l'ho mai conosciuto. Beh, fantastico. Io qui te lo faccio ascoltare perché John Hendrix, pur avendo soltanto due ottave a disposizione con la sua voce, interpreta questa composizione immortale di Bruno Martino come pochi al mondo. Ok, grazie. Soundcheck, il suono della musica. Yeah! Di nuovo in contatto con il soundcheck di Radio 24 e qui sempre con Rita Marco Tulli. Abbiamo ancora pochi minuti a nostra disposizione, Rita, ma c'è un'altra collaborazione importante che vorrei tu ricordassi ai nostri amici, con la bravissima cantante Noa. Come l'hai conosciuta e come è nata questa collaborazione con Noa? Ah, dunque, io l'ho conosciuta la prima volta in Sicilia perché lei mi aveva visto suonare con una danzatrice. E gli era piaciuto molto quello che avevo fatto, per cui mi ha invitato come ospite a una sua cosa, e da lì chiaramente siamo rimasti in contatto, grande stima, grande amicizia. E poi l'avevo richiamata io per suonare sul mio disco, che è Coinè, dove avevo fatto un pezzo che si chiamava Just Feel, in quel caso gli avevo chiesto se voleva venire, lei mi ci ha messo un testo, poi mi ha detto: è bellissimo, senti, ma se io ti chiedessi di suonarlo invece sul tuo disco, sul mio disco? E io ho detto: beh, perché no? Un po' mi è dispiaciuto che non era sul mio, però poi alla fine lei l'ha registrato sul suo, dove io ho suonato, quindi è rimasta questa collaborazione. Abbiamo continuato a fare delle cose, anche 2 anni fa abbiamo fatto una piccola tournée e ogni tanto ci sentiamo. E come si intitola adesso il brano? Today, lo ascoltiamo? E vai. A questo è Today, brano scritto da Rita Marco Tulli, la voce è quella di Noa, al soundcheck di Radio 24. La voce di Noa per questa composizione di Rita Marco Tulli a chiudere il soundcheck di Radio 24, ma vorrei chiudere ricordando un tuo amico, un meraviglioso musicista che io ho conosciuto a casa tua, quella vecchia dove ci riunivamo con Roberto Gatto, Danilo Rea, Enzo Pietro Paoli, Furio Di Castri, dove si mangiava e si faceva musica dalla mattina alla sera. E ti sto parlando, l'avrai capito, di Michel Petrucciani. Come conoscesti Michel e perché Michel frequentava casa Marco Tulli allora? Ma dunque, guarda, Michel l'ho conosciuto ancora quando non era Michel Petrucciani, non era così famoso. Aldo Romano l'ha scoperto e ci disse: Aldo Romano è un famosissimo batterista italiano di jazz, residente a Parigi da sempre, diciamo che è francese. E quindi andammo a sentire Michel Petrucciani, suonava in trio con Aldo e con Furio Di Castri. E quindi Furio era sposato con mia sorella in quel periodo e si viveva tutti in questa casa, che poi è rimasta storica casa dei musicisti di jazz, perché chiunque veniva lì, da Giolovano, qualsiasi, Joe Baron, John Taylor, Paul Motion, passavano tutti. E Michel Petrucciani, appunto, l'avevo conosciuto così, e poi siamo rimasti talmente amici che lui veniva sempre a Roma e appena arrivava stava da noi, per cui mi ricordo delle serate, poi te lo ricordi anche te perché c'eri, quindi a suonare a quattro mani, suonare tutte le sere, a giocare, a parlare di filosofia, di musica, a divertirci. È un personaggio straordinario, veramente straordinario, dotato di un grandissimo senso dell'umorismo, e era un pianista meraviglioso. Che cosa aveva di speciale pianisticamente parlando? Ma intanto la facilità con cui lui riusciva appunto a raccontare delle storie, e poi queste frasi lunghissime, riusciva a fare queste frasi lunghissime armonicamente, non finivano mai, cioè riusciva a fare delle cose incredibili, però sempre dette. Cioè, la cosa che mi stupiva di Michel è che suonava tante note, ma erano tutte dette, non ce n'era una che passava così, capisci? Come un tutte pensate. Esattamente, per quello che era bello, erano tutte cantate meravigliosamente. Guarda, hai detto la parola giusta, perché il brano col quale ci salutiamo si intitola Cantabile, un brano scritto da Michel Petrucciani, e qui lo ascoltiamo dal vivo con un trio storico accompagnato da Steve Gadd alla batteria, Anthony Jackson al basso elettrico, in una registrazione live fatta a Tokyo negli anni 90. Rita, sei stata gentilissima, grazie, ti voglio bene, anch'io. In bocca al lupo per la carriera, la famiglia, il pianoforte e tutto. Adesso grazie. Però mi fai un bel caffè. Grazie a Rita Marco Tulli. Termina qui il soundcheck di Radio 24 con Michel Petrucciani. Soundcheck. Il suono della musica.